Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Iniziamo con il dire che il 14 si riapre. Sarà un anno indubbiamente complesso, non neghiamo le difficoltà perché ci sono, però non dobbiamo nemmeno dimenticare il lavoro straordinario che è stato fatto quest'estate per reperire spazi per il personale, per i lavori di edilizia scolastica leggera che sono stati fatti, e non dobbiamo nemmeno dimenticare mai che viviamo in una pandemia globale che al momento lascia ancora 1 miliardo di studenti a casa. E questo in dubbio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la ministra Azzolina l'avete sentita, bersaglio di molte polemiche, il centro proprio degli attacchi in questo periodo, anche se i mali della scuola in realtà sono atavici e la ripartenza non dipende naturalmente solo da lei, però ostenta, avete sentito, ottimismo per questo grande test della ripartenza della scuola prevista per lunedì. Mancano 3 giorni, questo lunedì 14 settembre, però parte l'allarme dei sindacati, in particolare della CISL, che dicono una scuola su 4 non potrà riaprire, non ha l'organizzazione, gli strumenti giusti, le misure di sicurezza, e poi anche i presidi che chiedono, va bene, se allora dei bambini o ragazzi stanno a casa, dopo 3 giorni vogliamo che ci sia l'obbligo del certificato, che invece era sparito, no? Quando si torna a scuola da una malattia non ce n'era bisogno. Quindi insomma i problemi, diciamo che aumentano le preoccupazioni, le questioni da risolvere. Dopodiché parleremo naturalmente anche di, torneremo sugli sviluppi importanti che riguardano l'efferato omicidio di Willy Duarte, perché c'è un cambio di imputazione da parte della procura di Velletri. E poi ci sposteremo anche negli Stati Uniti, non solo perché è l'11 settembre, quindi le celebrazioni per un giorno importantissimo che ha cambiato la storia dell'umanità, ma anche perché Fauci, il virologo della Casa Bianca, praticamente ha detto che sono talmente tanti i contagi negli Stati Uniti che lui consiglierebbe un lockdown nuovo in autunno per gli Stati Uniti. Insomma, tante cose da raccontarvi in questa puntata, ultima puntata della settimana. Pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, altrimenti WhatsApp al 349-238-6666. L'epidemia di Covid in Italia, ancora in salita i contagi, più 1.616 in 24 ore, 10 i morti. Intanto in Francia è ufficiale il periodo di quarantena per le persone che sono state in contatto con positivi al Covid-19, scende da 14 a 7 giorni. Scuola, l'allarme dei sindacati, una scuola su 4 non riaprirà normalmente, i presidi chiedono l'obbligo di certificato dopo 3 giorni di assenza. L'omicidio di Willy, la procura di Velletri modifica il capo di imputazione per i 4 arrestati in omicidio volontario. Fondi Lega, spunta un altro indagato, si tratta di un imprenditore vicino al partito di Salvini. Violenza sulle donne, stupro di gruppo in provincia di Matera su 2 ragazzine turiste straniere. Stati Uniti, celebrazioni per il ricordo dell'11 settembre e per i molti contagi da coronavirus in America, il virologo Fauci chiede un altro lockdown in autunno. Cinema, domani cerimonia di chiusura a Venezia, impazza il Toto Leone, il favorito è Rosy. Partiamo quindi dall'epidemia di coronavirus in Italia. In aumento i nuovi casi segnalati per la 6ª settimana consecutiva, come certifica l'Istituto Superiore di Sanità. Sono 1.616 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in lieve aumento rispetto a ieri, a fronte di un numero molto superiore di tamponi, oggi quasi 99.000. Gli attualmente positivi sono oltre 36.000, di cui 1.849 ricoverati con sintomi. Aumento di 11 pazienti nelle terapie intensive, dove sono ricoverati 175 pazienti, 10 i decessi come ieri. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti dall'inizio dell'epidemia in Italia, è 284.796. E il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando questi dati, ha detto: aumenta purtroppo l'età alla diagnosi, che ora è di circa 35 anni, che dice sta a significare un inizio di trasmissione intrafamiliare. Per tutti questi motivi, ha detto, è necessario continuare a mantenere comportamenti atteggiamenti prudenti, niente assembramenti, mascherine in luogo pubblico, una sana e accurata igiene delle mani, distanziamento sociale. Questi dunque i numeri a 3 giorni dalla riapertura delle scuole nella gran parte delle regioni, riapertura che agita. A pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, dai sindacati arriva un nuovo allarme. Un istituto su 4 presenta criticità e non riaprirà regolarmente, avverte a Focus Economia Maddalena Gissi, segretaria della CISL Scuola. Ci potranno essere dei problemi, in alcuni casi addirittura non riapriranno. Ci sono i comuni, i sindaci che stanno rinviando l'apertura dal 14 al 24. A rinviare al 24 saranno anche le scuole di La Spezia e a farsi sentire nel frattempo è anche l'associazione dei presidi che chiede di istituire l'obbligo di un certificato medico per gli alunni che rientrano in classe dopo 3 giorni di malattia. Sul fronte politico, per evitare polemiche, il premier Conte ha deciso di annullare il suo videomessaggio a Domenica Inn per l'avvio dell'anno scolastico. La ministra dell'istruzione Azzolina non esclude invece un ricorso contro l'ordinanza con cui la regione Piemonte chiede alle famiglie di autocertificare la temperatura dei figli e in caso contrario impone alle scuole di misurarla prima del loro ingresso in classe. La nostra non è una provocazione, è solo una forma di tutela, replica il governatore piemontese Cirio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Cirio, che è stato ospite, ricordate, ieri nella puntata, ieri sera, di Effetto Notte, vi farò sentire ancora alcuni passaggi oggi e tra poco appunto ci sarà spazio per tornare su questo test cruciale della riapertura. Intanto in Francia è ufficiale la quarantena per le persone che sono state in contatto con positivi al coronavirus, scende da 14 a 7 giorni. Negli Stati Uniti l'immunologo Anthony Fauci rilancia la necessità di chiudere il paese. Solo ieri però Donald Trump ha escluso un nuovo lockdown che scatta invece in Israele, in tutto il paese. Verrà formalizzato domenica e durerà 2 settimane in Israele. Nuovo picco anche nel Regno Unito, che ha contato oltre 3.500 contagi nelle ultime 24 ore. E siamo alla politica italiana. È durato circa 5 minuti e mezzo l'intervento di Matteo Salvini a Torre del Greco nell'ambito del suo tour elettorale in vista delle regionali del 20 e 21 settembre. Fischi, slogan, contestazioni e perfino lancio di pomodori hanno accolto le sue parole sul palco. E in queste ore la Lega di Salvini fa i conti con gli sviluppi dell'inchiesta di Milano, che ha portato ai domiciliari 3 commercialisti vicino al Carroccio e il cognato di uno di loro, indagato anche un altro imprenditore vicino al partito. Avevano drenato soldi pubblici e puntavano a farlo ancora, forti anche degli incarichi di rilievo ricoperti. Parla di spiccata capacità organizzativa il GIP di Milano nell'ordinanza con cui ha mandato ai domiciliari 3 commercialisti della Lega in un'inchiesta sull'acquisto della sede di Lombardia Film Commission. Ne facciamo altre 1.000, la prossima volta andrà bene, invece di 50 ne prendi 70, si dicono intercettati Michele Scillieri ed Alberto Di Ruba, direttore amministrativo della Lega al Senato, entrambi arrestati insieme ad Andrea Manzoni, revisore contabile del Carroccio alla Camera. Ai PM quest'ultimo confessò di aver saputo dell'affare della compravendita di un capannone a Cormano in una visita in via Bellerio. Ai magistrati però Manzoni ha taciuto dei trasferimenti di denaro sul suo conto personale, nota il GIP, che definisce provato l'accordo collusivo per pilotare l'appalto e far sparire soldi pubblici per 800.000 euro. E di 19 assegni in Svizzera aveva parlato il prestanome, già arrestato a luglio. Conosco 2 delle 3 persone, sono oneste, ma ho fiducia nella magistratura, il commento del leader del Carroccio Matteo Salvini. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia con la cronaca si aggrava la posizione dei 4 arrestati per la morte di Willy Montero Duarte a Colleferro. L'omicidio, secondo la procura, è stato volontario e aggravato da futili motivi. Domani ci saranno i funerali del ragazzo, ai quali parteciperà anche il Presidente del Consiglio, e torneremo su questi importanti sviluppi dell'inchiesta. Violenza invece contro le donne, stuprata la notte di Ferragosto sulla spiaggia del Circeo, e la denuncia di una ragazza romana di 19 anni. La giovane ha raccontato agli agenti di aver subito violenza da 2 coetanei che già conosceva e che ora risultano indagati. Ed erano state drogate le 2 ragazze minorenne inglesi che hanno denunciato di essere state stuprate a Pisticci in provincia di Matera. Hanno tra i 19 e i 23 anni, 4 giovani arrestati per la violenza sessuale ai danni di 2 turiste minorenni inglesi, avvenuta la notte dello scorso 7 settembre durante una festa nel giardino di una villa vicino a Pisticci, in provincia di Matera. Le accuse a loro carico sono di violenza sessuale e lesioni personali aggravate e continuate. A rivelarlo il procuratore della Repubblica della città dei Sassi, Pietro Argentino. Un reato commesso con brutalità ed efferatezza. Ai danni mamme di due bambine, si possono chiamare così bambine. Nello stupro di gruppo sono coinvolti anche altri tre indagati in stato di libertà e forse un'ottava persona. Come ricostruito dagli inquirenti, dopo lo stupro le due minorenni hanno chiamato il 118, poi sono state visitate e trasportate in ospedale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occupati in caduta libera nel secondo trimestre dell'anno, secondo l'Istat, più penalizzati i giovani, quindi crolla l'occupazione nonostante il blocco dei licenziamenti. Tra aprile e giugno si sono registrati 470.000 occupati in meno rispetto al primo trimestre e 841.000 in meno rispetto al primo trimestre del 2019. Si è esaurito il pacchetto di incentivi governativi da 100 milioni di euro per l'acquisto di auto rientranti non inquinanti. Lo fa sapere l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, previsto dal decreto agosto. Questo bonus si è esaurito in pochi giorni. È urgente rifinanziarlo, sostiene il presidente dell'Unione Nazionale appunto dei Rappresentanti Autoveicoli Esteri, Michele Crisci, dice: per non frenare la crescita di un settore già fortemente colpito nei mesi scorsi dall'emergenza sanitaria. Per chiudere il cinema, domani la cerimonia di chiusura della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Presentato oggi l'atteso road western, sulla carta tra i possibili vincitori, Nomadland di Chloe Zhao, ma il Toto Leone dà ancora come favorito Notturno di Gianfranco Rosi. E vedremo un po' che cosa succederà domani. Intanto vediamo cosa succede su strade e autostrade. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti di notizie ricche di informazioni, di aggiornamenti, di approfondimenti con gli ospiti che cominceranno tra pochissimo. Avete appena sentito la sintesi della giornata con quelle che sono le notizie più importanti. Allora cominciamo con questi temi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, rush finale per il decollo ufficiale del nuovo anno scolastico. Lunedì, tra tre giorni, lunedì 14 settembre, come ribadito due giorni fa dal Presidente del Consiglio Conte, la scuola riapre come data ufficiale appunto il 14 settembre in gran parte d'Italia, con luci e ombre, con misure di sicurezza e incertezze, speranze, timori, insomma un gran banco di prova per il governo, ma anche, come ha detto in effetti Conte in questa conferenza stampa di due giorni fa, le cose diciamo è un banco di prova in realtà per tutto il sistema Italia. Bisogna dire a onor di cronaca che in Francia e in Germania le cose non stanno andando in modo molto liscio, aumentano i contagi soprattutto in Francia, delle scuole sono già state chiuse, quindi incrociamo le dita e speriamo naturalmente, perché il manuale della apertura garantita della scuola purtroppo non ce l'ha nessuno. E in ogni caso la ministra Azzolina continua a essere, vi dicevo dall'inizio, questo principale bersaglio delle opposizioni, quindi il clima molto caldo. Tra l'altro ieri l'annuncio da parte dell'Unione Studenti di una manifestazione di piazza, di protesta, perché ritengono che il governo non abbia fatto abbastanza per far ripartire in sicurezza la scuola il 25 e 26 settembre. Intanto regioni, comuni e scuole in alcuni casi si muovono con ordinanze proprie. Per esempio il Piemonte ieri è scattata questa polemica per l'ordinanza del presidente Cirio sulla misurazione. Ha chiesto, con questa ordinanza ha obbligato anzi le scuole a misurare loro la temperatura a ragazze e ragazzi quando arrivano a scuola, mentre il governo sapete che l'ha affidata alle famiglie, insomma questa incombenza. A reagire all'ordinanza è stato il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Piemonte, Fabrizio Manca, secondo il quale l'iniziativa di Cirio è tardiva, inappropriata e ingenera confusione. Manca ha detto verrebbe da dire che lo Stato ha fiducia a credere nella responsabilità genitoriale, mentre la Regione Piemonte non ha fiducia. Allora io ho chiesto ieri al presidente Cirio se questo è il problema, la fiducia nei confronti delle famiglie. Io ho fiducia piena nelle famiglie del Piemonte, però io credo che in un paese normale la febbre viene misurata a scuola. In un paese normale in cui all'interno delle aziende, i lavoratori, viene misurata la febbre, all'interno degli uffici pubblici e degli uffici di servizi viene misurata la febbre, all'interno delle scuole dove ci sono ragazzini vulnerabili, bambini che al pomeriggio trascorreranno poi la giornata con i loro nonni che ancora sono soggetti ben più vulnerabili, a questi la febbre non viene misurata. E poi sempre a Cirio ieri ho chiesto, ma d'accordo le sue motivazioni, si può essere anche d'accordo sul fatto che dovrebbe essere la scuola a prendersi questa incombenza, però ho chiesto anche al presidente del Piemonte come mai proprio a 4 giorni, ieri erano 4 giorni dalla riapertura delle scuole, cosa che questa mette un po' in difficoltà appunto i dirigenti scolastici e le scuole del Piemonte. Sentiamo la risposta. Vuole che ci sia un'autocertificazione sul diario da parte delle famiglie, ma poi una volta che il bambino o il ragazzo arriva a scuola vuole che sia la scuola poi a certificare che effettivamente con termoscanner non abbiano la febbre, questo? È questo, ma io non credo di chiedere una cosa assurda. Si mette a rischio davvero tutti gli altri bambini che magari l'hanno misurata, perché affidare alla sensibilità delle famiglie, di cui ho piena fiducia, ma ne basta una che abbia l'idea che il Covid non esiste. Già, come mai a 4 giorni dall'inizio della scuola decide che è la scuola che deve misurare la temperatura? Ma la competenza della scuola non è mia. Noi abbiamo cercato in queste settimane di dire al governo, io per primo, misurate la febbre a scuola. Mi è stato detto di no. Ho provato ancora in queste riunioni che stiamo facendo quotidianamente in Regione Piemonte a trovare soluzioni alternative. Alla fine, a 4 giorni, mi sono trovato con l'unica arma dell'ordinanza. Allora, saluto Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. Buonasera Rusconi, bentornato qui a Effetto Notte. Buonasera a tutti voi. Lei, per esempio, cosa ne pensa di questa ordinanza della Regione Piemonte di Cirio? Ma guardi, io penso che l'autonomia delle scuole dovrebbe essere veramente protetta come se fosse un'orchidea in una serra, cioè a forza di ordinanze, di imposizioni e così via, l'autonomia va veramente deperendo. Io so che ci sono alcune scuole, diverse scuole che statali, che la mia è una scuola paritaria, noi per esempio abbiamo il termoscanner, che hanno adottato tutte le misure, diciamo, tra le misure di sicurezza, anche quello di comprare un termoscanner per verificare la temperatura, anche perché sappiamo che ad esempio non si possono fare autocertificazioni sulle proprie condizioni di salute. Io non sono un giurista, ma ci siamo documentati, non è possibile che una mamma possa scrivere mio figlio non ha la febbre e così via, perché tutto ciò che attiene alla salute non è autocertificabile. Però invece questo prevede diciamo l'ordinanza del governo, la decisione del governo è questa, che sono le famiglie che devono misurare a casa. No, ma non devono. Però le famiglie, secondo l'ordinanza del governo, d'accordo, ma non devono portare un'autocertificazione sul fatto che il bambino non abbia la febbre, perché questo è vietato dalla norma generale, insomma non si può fare un'autocertificazione. Cioè, se un medico, tutta più che dica questo, ma lei pensi se in una scuola di 1500 alunni ci possono essere 1500 certificati, la scuola chiuderebbe dopo 2 giorni. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, anche noi avevamo chiesto ad esempio che il Ministero della Salute imponesse in qualche modo l'obbligo a tutti gli insegnanti, a tutti i presidi, a tutti i bidelli, gli impiegati, anche il fatto di essere sottoposti ad un controllo sierologico e così via. Questo non è avvenuto e a noi dispiace. Ha visto che però il 50% del personale scolastico si è sottoposto in questi giorni, 13.000 sono risultati positivi al Covid, era notizia di ieri, se non sbaglio. Immagini se nell'altro 50% non si è sottoposto, che cosa potrebbe succedere, perché avendo saputo che 13.000 sono appunto positivi, chiaramente non andranno a scuola, ma dell'altro 50% non sappiamo nulla. Noi abbiamo chiesto appunto a suo tempo al Ministero della Salute che fosse obbligatorio. Capiamo poi che il termoscanner, la misura, il sierologico e così via comporta su milioni di persone dei problemi organizzativi molto grandi, però probabilmente almeno il sierologico sarebbe stato opportuno, diciamo, estenderlo a tutto il personale della scuola. E noi abbiamo chiesto anche a Campione, ai ragazzi del terzo, quarto e quinto superiore, perché sono i maggiori attori della movida notturna. Però mi sembra che la ministra Azzolina abbia detto una cosa del genere, che a Campione durante l'anno gli studenti verranno fatti dei test. Sì, all'inizio non era stato detto e noi siamo soddisfatti del fatto che sia stato, diciamo, annunciato a Campione. Perché? Perché è anche un modo, un deterrente per dire, ragazzi, attenzione appunto anche a voi stessi, perché sta fortemente abbassandosi l'età del contagio, attenzione a voi stessi perché tra l'altro potreste nuocere non solo ai compagni e agli insegnanti, ma soprattutto ai vostri familiari. Senta Rusconi, appunto a 3 giorni, come si ricordava, dalla riapertura ufficiale della scuola, però arriva anche l'allarme dei sindacati, che già nel tempo hanno lanciato diversi allarmi. Oggi, per esempio, Maddalena Gissi, che tra poco sentiremo intervistata a Focus Economia da Sebastiano Barisoni, ha detto che una scuola su 4 presenta criticità per l'inizio dell'anno scolastico e non riaprirà regolarmente. Sentiamo questo passaggio. Molte realtà sono in grande difficoltà, i dirigenti si stanno attrezzando, anzi lo hanno fatto per tutto questo periodo insieme anche a tanto altro personale. Il problema è: apriamo i battenti in che modo? Con tanta buona volontà, questo glielo abbiamo chiesto, anche noi lo abbiamo sostenuto, ma probabilmente non è possibile organizzare un tempo scuola se manca il personale. Come siete messi quindi anche da questo punto di vista, Preside Rusconi? Ma guardi, mi permetta la franchezza, io non credo che uno sciopero aiuti a risolvere le situazioni, insomma. Lo sciopero è un'arma che storicamente è stata creata perché bisognava fare delle rivendicazioni che avessero degli orizzonti praticabili, ma fare uno sciopero nel periodo del Covid o quando è stato fatto, mi sembra, durante il lockdown e così via, non lo trovo molto razionale e molto sensato, però ognuno fa le scelte che ritiene opportune. Circa il fatto poi del dire come sto sentendo, anche detto in varie occasioni che la scuola è diventata un grande ring, e questo ci dispiace molto, in cui i partiti si sfidano allo wrestling, neppure alla boxe, che se non altro ha delle regole ben precise. E perché sto dicendo questo? Perché fondamentalmente i problemi che si stanno verificando con il Covid, mancanza di insegnanti, difficoltà con le classi cosiddette pollaio, sono problemi che noi conosciamo e denunciamo da 20 anni. Nessuno ha il diritto di scagliare la prima pietra, perché guardi che c'erano già delle norme che prevedevano che non potessero essere un certo numero di alunni in base alla volumetria dell'aula, non sono state mai applicate. Perché? Perché in maniera insensata, diversi anni fa, e non faccio polemica politico-partitica, diversi anni fa si decise di tagliare 8 miliardi di euro, 16 mila miliardi di lire, e come si tagliano? Non si possono certo sopprimere gli studenti, si ammassano nelle classi mettendoci meno insegnanti, e adesso ci siamo accorti che questo problema è un problema che non è più risolvibile in quel modo per il Covid. Altra cosa, mancano gli insegnanti. Quando mai la scuola, dal punto di vista della didattica, cioè del rapporto con gli studenti, è cominciata il 10 settembre? Nella mia lunga carriera non me lo ricordo. So che cominciava alla fine di settembre, delle volte a metà ottobre, guardi, in qualche caso alla fine di ottobre avevamo l'orario completo delle lezioni. Perché? Perché ci sono molti precari, e i precari ci sono perché non vengono banditi i concorsi. Allora, questo sono fenomeni veramente di patologia, scusi l'ossimoro, fisiologica, cioè una patologia che si ripete da tantissimi anni. Adesso qualcuno adopera, diciamo, queste situazioni per portare vantaggio al governo o all'opposizione, ma bisognerebbe avere il coraggio, l'onestà mentale e intellettuale e morale da parte soprattutto delle istituzioni del dire è un problema ventennale che non abbiamo mai avuto la forza di risolvere. Quindi lei dice la scuola è sempre stata una cenerentola e viene usata in modo strumentale per darsi addosso la clava reciprocamente. Insomma, senta Preside Rusconi, però anche voi, a parte le cose che sta dicendo, avete fatto una richiesta nelle ultime ore, che a proposito di regole certe per la sicurezza, la ripresa in sicurezza della scuola, è quella di un certificato medico quando un bambino, un ragazzo sta a casa per almeno 3 giorni. Sì. Questo chiedete? Sì, guardi, fino a, mi sembra, l'anno scorso era obbligatorio, dopo 5 giorni veramente di malattia, era obbligatorio portare un certificato medico in cui il medico dichiarasse che appunto il bambino, il ragazzo era indenne da patologie. E poi è stato da allora, noi lo dicemmo in maniera insensata, mi permetta, è stato tolto da diverse regioni, compresa la mia regione. Noi già allora chiedemmo, non c'era il Covid, che non aveva senso, perché un bambino che poi, o un ragazzo che aveva una malattia, immediatamente la contagiava. Che ne sappiamo noi se in buona fede la mamma lo mandava a scuola pur avendo ancora dei sintomi di un'infezione, eccetera? Non siamo stati ascoltati. Adesso vorremmo che, se non altro in periodo di Covid, venisse ripristinato. Però per fare questo ci vuole una norma, che è una norma di legge, e fra tanti decreti legge di PCM che sono stati fatti si potrebbe fare anche una cosa di questo tipo, soprattutto per proteggere la salute degli studenti ma anche degli insegnanti. Quindi però è una richiesta, una proposta, dovete aspettare di sentire il governo che cosa risponde a questo, perché esatto. È probabile, anzi è sicuro, Preside Rusconi, che si navigherà a vista, che si comincia ad aprire e che poi tanti aggiustamenti dovranno essere fatti in corso, no? Ma corso sì, d'opera. Guardi, anche il fatto, per esempio, mi permetta, nella mia regione, per esempio, parlando con l'assessore all'istruzione, perché il titolo quinto della Costituzione dà la potestà solamente alle regioni di poter chiudere e aprire le scuole, non certo al Ministero dell'Istruzione né al Preside. E nella mia regione l'assessore aveva dichiarato che se la scuola verificava che c'erano delle condizioni di totale inagibilità, che sa che cosa vuol dire, per esempio un mio collega preside mi scrive un WhatsApp l'altro giorno, dice: io non posso aprire nel Lazio il 14 perché ho 4 cantieri in corso, si tratta di una scuola di bambini piccoli, ma mi pare che li metto così a repentaglio la loro vita, quindi devo aspettare che i cantieri chiudano. Allora, nel Lazio era stato deciso da parte dell'assessore che bastava una determina ben precisa, non del preside, attenzione, che non è demiurgo, ma del consiglio di istituto in cui ci sono anche i genitori e nelle scuole superiori anche gli studenti, che naturalmente fosse ben motivata con delle ragioni ben esplicitate e che poi venisse, diciamo così, dichiarata e inviata al proprietario dell'edificio, che sappiamo è il comune o la provincia. E questo sta succedendo invece, che probabilmente comuni, province si stanno comportando in maniera difforme, cioè manca una concertazione anche tra gli enti locali. Capisco che sono governati da politici, per cui spesso rispondono ad altre logiche. Dice: senta, sentiamo, sì, però. E si fanno i dispetti, diciamo, insomma, per cui a Roma, il comune di Roma e la provincia non hanno detto nulla. A Rieti e a Viterbo hanno chiuso le scuole fino al 24. Beh, insomma, mi sembra che più che una repubblica autonoma stiamo diventando una specie di bricolage noi. Senta, a proposito delle varie preoccupazioni, sentiamo ancora una dichiarazione delle ultime ore della ministra Azzolina. Ci sono dei protocolli di sicurezza che noi abbiamo scritto insieme al Ministero della Salute, all'INAIL, all'Istituto Superiore di Sanità, delle procedure da applicare. E queste procedure si stanno già applicando in questi giorni laddove il caso di Covid si sia verificato, quindi è tutto sotto controllo, proprio perché è un anno eccezionale e sappiamo quali possano essere le conseguenze, no, di certe cose, che ci siamo preparati ad affrontarle tutte quante ad una. Preside Rusconi, siamo proprio in chiusura, ha 30 secondi per fare un suo augurio, un suo appello, adesso che appunto manca pochissimo alla ripresa della scuola. Ma guardi, io faccio soprattutto un qualche cosa che voglio dire alle famiglie, ci teniamo troppo alle famiglie e agli studenti. La scuola ce la mette tutta, gli insegnanti, i presidi, i bidelli e così via, ce la stiamo mettendo tutto. Ho parlato poco fa con un mio collega che stava finendo alle 8:30 il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, da stamattina alle 8. Quindi noi ce la mettiamo tutta. Chiaramente non è che possiamo garantire l'immunità dal Covid, perché è un flagello che non è nelle mani di noi uomini mortali. Chiaro. Grazie Preside Mario Rusconi, buon lavoro, buon inizio allora. Grazie a tutti voi. Grazie. Ci fermiamo come al solito per una breve pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effettonotte oppure al 349-238-6666, che è il numero per i vostri WhatsApp. Torno ratta come la folgore con altri argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Effetto Notte con voi come sempre tutte le sere dalle 21 alle 22, Roberto Giordano con voi a raccontarvi in sintesi le notizie più importanti e poi ad approfondire alcune di queste con gli ospiti. Abbiamo parlato ancora di questa ansia, speranza e tensione che è l'attesa della riapertura ufficiale della scuola il 14 settembre, con luci e ombre, problemi appunto e speranze, e adesso invece passiamo ad altri temi. Intanto i vostri messaggi, le vostre riflessioni sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure WhatsApp al 349 238 6666. Dice per esempio questo ascoltatore: il sierologico non è certo, oggi io lo faccio e sono negativo, domani potrò diventare positivo, dice Andrea da Udine. In effetti il sierologico serve a sapere se abbiamo gli anticorpi, il che significa che magari lo abbiamo avuto la malattia o in corso eccetera, mentre il tampone dice se in quel momento siamo positivi o no. Però insomma abbiamo detto che si naviga a vista e che la situazione è eccezionale. Ora invece vorrei soffermarmi su questa importante novità che riguarda l'efferato omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte. Lo sapete, è stato a morte da un branco di irrefrenabili violenti nella notte tra sabato 5 e domenica 6 a Colleferro, a un'ora circa da Roma. C'è un possibile c'è uno sviluppo molto importante, dicevo, che in realtà era un possibile sviluppo dell'inchiesta che si ventilava da giorni e adesso finalmente è ufficiale. È così, Raffaella Calandra? Ciao Raffaella. Ciao Roberta, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Come abbiamo detto già nei giorni scorsi, era già un po' nell'aria l'ipotesi che l'accusa rivolta ai quattro indagati arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte da omicidio preterintenzionale diventasse omicidio volontario. E così è stato. Dunque l'accusa per i quattro ragazzi ventenni, i due fratelli bianchi, Marco Pincarelli e Francesco Belleggia, è diventato omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi. Perché questa svolta e perché infatti era anche già preannunciata? Perché i primi risultati dell'autopsia sul corpo della vittima e le testimonianze di alcuni testimoni presenti appunto quella notte davanti a quel locale dove si è consumato il pestaggio hanno raccontato di colpi dati al ragazzo quando era già a terra inerme e insomma aveva già anche delle convulsioni, no? Delle convulsioni parlano, esatto, alcuni testimoni di questo. Esatto. Cioè questo in qualche modo per gli inquirenti è traccia di colpi inferti quando era già evidente che la vittima stava male, non poteva reagire, quindi diciamo quando si era superata quella fase della rissa ed erano colpi dati ad una persona che non era più in grado di rispondere e quindi con l'intenzione di uccidere. Questo significa omicidio volontario aggravato appunto dai futili motivi, che concretamente per gli indagati apre degli scenari ancora peggiori rispetto in caso di un eventuale processo, rispetto alla possibilità di avere anche la condanna più grave, dall'altra parte la difesa degli indagati, a cominciare da quella dei due fratelli, ha portato all'attenzione dei PM altre 5 testimonianze che adesso potrebbero essere persone che potrebbero essere convocate dai magistrati, a cominciare da un altro ragazzo presente quella serata che aveva scritto su Facebook un post in cui si diceva pronto a raccontare la verità su quei fatti. E poi ci sono le ragazze che si sarebbero appartate in quelle ore con i due fratelli. Loro ritengono di poter ancora dare una versione diversa rispetto alla dinamica dei fatti, però gli elementi raccolti dagli inquirenti aggravano ulteriormente la posizione dei quattro e dunque, come dicevamo, l'accusa in questo momento è diventata omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Domani, Roberta, come ci sono ovviamente i funerali, certo. Esatto, come hai già ricordato, ci sono i funerali a cui parteciperà anche il Presidente del Consiglio, il Sindaco del Paese invita chissà a parlare, perché quella sera c'erano diverse persone in quella scena del crimine e ci possono essere tasselli che possono ancora contribuire alla ricostruzione dei fatti, e allo stesso tempo il Sindaco del Comune originario del comune dei due fratelli bianchi preannuncia c'è la possibilità di costituirsi parte civile contro i suoi stessi concittadini, visto che in quello stesso paese lavorava anche Willy. Insomma, una storiaccia veramente terribile che deve essere ancora definita in tutti i dettagli, ma che appunto diventa ogni giorno più cruenta. E chi ha sconvolto l'opinione pubblica, giustamente, c'è questa insegnante, dice, da insegnante, da cittadina, quindi da educatrice, dice: intollerabile vedere distrutta una vita perché è schiacciata dalla furia di chi nel distruggerla ha perso ogni dignità di essere umano. Ricordo solo, Raffaella, che il sindaco di Colleferro ha proposto anche oggi di erigere un monumento a questo ragazzo. Qualcuno può pensare che sia così una cosa, diciamo, tra virgolette, esagerata, però in realtà diventerebbe un simbolo di quei ragazzi, ragazzi e ragazzi che vogliamo, con quella vitalità coraggiosa, spensierata e generosa di Willy, e non questi giovinastri, criminali, violenti, che certamente non devono rappresentare né il presente né il nostro futuro, né quello che è il modello per i più giovani, per le ragazze e i ragazzi. Poi vedremo, insomma, domani, appunto, come ricordavi, ci sarà il funerale. Grazie a Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Roberta, grazie a te. Ciao. Ciao. Ora collegamento con il nostro Riccardo Barlam dagli Stati Uniti. Riccardo. Buonasera a tutti, ciao Roberta. Non solo perché ci ricorderai che oggi è l'11 settembre, le celebrazioni. Sì, che io ci sono stato lì stamattina perché il mio ufficio è a 300 metri dalle Torri Gemelle, quindi sono stato lì, devo dire, è stato abbastanza toccante, era il 19° anno, come sapete tutti. 11 settembre 2001, la data 2001, insomma, che ha sconvolto il mondo e che ha cambiato le nostre vite. Quest'anno col Covid il messaggio un po' era la resilienza, resistiamo, anche questa volta ce la faremo, e tutto è stato un po' in tono minore perché c'erano solo i familiari delle vittime, era tutto blindato, non si poteva andare come al solito lì attorno alle fontane, alle Torri Gemelle. I momenti che vi dico mi hanno colpito di più sono c'è stata la lettura di tutti i nomi da parte di alcuni familiari delle vittime. C'è stata una ragazza che a un certo punto leggeva i nomi delle vittime e si è fermata, ha detto il nome di una donna e poi ha detto mia madre. E lì c'è stato un attimo veramente di commozione, e evidentemente era una bambina quando è successo questo fatto. Certo, 19 anni fa. Esatto, e poi due momenti in cui sono crollate le torri e in modo molto, molto formale, ci sono tre poliziotti con i guanti bianchi che suonano, uno di loro suona la campana 10 volte, questa campana nel momento in cui crolla la torre. Senti, invece ieri Riccardo, ieri abbiamo parlato dell'ennesimo scandalo che coinvolge Donald Trump, no? Le rivelazioni fatte al leggendario giornalista di Watergate, Bob Woodward, che lo ha registrato nelle sue dichiarazioni e poi ha scritto questo libro Rage, Rabbia, in dove appunto Trump all'inizio febbraio aveva rivelato di sapere già da tempo che il coronavirus era 5 volte più mortale di una normale influenza, ma lui l'aveva minimizzato, no? Oggi Fauci, il virologo ufficiale della Casa Bianca, ha annunciato che, cioè, dice che secondo lui in autunno l'America dovrebbe chiudere nuovamente un nuovo lockdown perché dice i contagi sono troppi. Sì, così Fauci fa un po' la parte del grillo parlante, parla dalla parte degli scienziati e si trova con questo cliente scomodo che in qualche modo cerca sempre di sottovalutare i suoi messaggi. Vi dico solo che 2 settimane fa Trump ha nominato un nuovo consulente, il suo consulente, diciamo, sanitario, che è sopra Fauci in qualche modo, è un signore che è esperto, un medico esperto negli Stati Uniti nelle risonanze magnetiche, quindi potete immaginare cosa ne sappia del virus e delle epidemie, però era un opinionista di Fox News, che è la rete che fa riferimento Trump. Insomma a Trump. Bene, qui ci dobbiamo lasciare, non so, ti lascio in buone mani, non lo so caro Riccardo Barlam, riguardati, ci sentiamo presto, io adesso lancio la viabilità e poi anche il nostro reportage inizia questo venerdì, il reportage dell'ultima parte di Effetto Notte, poi ci sentiamo con il meteo, città in movimento, il viaggio che avete sentito durante questi giorni, adesso la nostra Anna Marino raccoglie i contributi di colleghi e colleghi. Radio 24 Reportage. Covid-19, città in movimento. Trasporti alla prova di scuola e lavoro. Diana Marino. Da settembre il trasporto pubblico locale è tornato alla fase pre-Covid. Il vero banco di prova sono le scuole e il rientro almeno parziale dallo smart working che mettono a dura prova le città italiane. Con Radio 24 per una settimana siamo stati in viaggio tra autobus, metropolitane, tram per capire chi si muove e come si muove, con le testimonianze raccolte da colleghe e colleghi. A Milano da Maria Luisa Pezzali, a Genova da Andrea Ferro, a Roma da Alessandra Schepisi, a Napoli da Laura Vigiano, per tastare oggi il polso dell'Italia che, ante Covid-19, in un giorno medio feriale registrava circa 100 milioni di spostamenti, oltre 8 su 10 in auto e moto, il 14,2% con mezzi pubblici e oltre 14 milioni al giorno. Soltanto a Milano, prima del coronavirus, si registravano 2,2 milioni di passeggeri al giorno su tutta la rete e abbiamo visto e sentito che tra mascherine, distanziamenti e plexiglass le città si sono messe in movimento e sono con il fiato sospeso in attesa dell'avvio della scuola chiusa per quasi 8 mesi, record in Europa. Fa un primo punto Andrea Gibelli, presidente di Astra, l'associazione delle aziende pubbliche del trasporto locale. Indubbiamente le linee guida hanno trovato una mediazione tra il governo e le regioni. Le nostre richieste era d'arrivare